guardare la TV e i giornali serve a poco, sono infrante alla grande tutte le regole del gioco, è dilagante un'impressione di virtù calante, degradante vivere senza alcun valore portante. La natura ci guarda e se la ride, per quanto ci accarezzi e baci sa come si uccide. Non ci si rende conto che per conto del mondo si può anche andare a fondo molto, ma col troppo si va a fondo. L'artificio è naturale per l'uomo, io l'ho capito, da nulla sono stupito, ma a volte sono smarrito e resto attonito dinanzi all'uso della mente, ma è evidente come questa senza il cuore serve a niente. È imbarazzante alquanto vedere che hai votato, leccare il culo a destra e manca perché un rinnegato, e ti manca il fiato, ti senti trascurato e raggirato, ti sembra tutto inutile e sprecato. Le mie orecchie tutti i giorni odono rumori nuovi, chiacchiere a vuoto, ma c'è un motivo se vengono fuori. Nulla viene dal nulla tranne Dio, il vuoto vivo verso il quale andiamo morendo a causa dell'oblio. Sono profezie ed oracoli, nella grande mente tentacoli che avvolgono con spire il nostro futuro, come andrà a finire muro contro muro. Sono profezie ed oracoli, nella nostra mente tentacoli che sarà, sarà, vivere sarà più duro. Chi ci salverà dal nostro futuro? Ci aspetta un futuro radioso, non so, ma più guardiamo avanti più ci muoviamo a ritroso. Siamo come un condottiero alla conquista, con un impero enorme che però ha perso di vista e continua la marcia credendo di possederlo, senza ministri ad amministrarlo né guardie a guardarlo, e non si rende conto di aver perso ciò che è dietro. Saremo come una pozza d'acqua senza l'acqua dentro, in una sfera di cristallo vedo i piani di Sauron riflessi. Ci stiamo laureando ma andremo a pulire i cessi. Cresci, mi dico, ma sono più avanti di molti in quanto molto intuito. Non so come combatteremo la terza guerra mondiale, ma è probabile che per la quarta useremo le clave. Tra centrali nucleari che esplodono, petroliere capovolte con i pesci che affogano, nuoteremo nei ghiacciai fra qualche anno, e Venezia solo i subacquei la visiteranno. Altro che velo pietoso, qui c'è da stendere un panno, e i colpevoli del danno stanno zitti perché sanno, ma sono poveri dentro, quindi ricercano il denaro per colmare il proprio vuoto ed addolcire l'amaro palato, sostituendo i deficit di corpo, anima e mente, trascurando l'essenza del tutto, tragicamente. Sono profezie ed oracoli, nella grande mente tentacoli che avvolgono con spire il nostro futuro, come andrà a finire muro contro muro. Sono profezie ed oracoli, nella nostra mente tentacoli che sarà, sarà, vivere sarà più duro. Chi ci salverà dal nostro futuro? Stanotte sentirai una canzone, una canzone che conosci già. La notte sentirai una canzone, una canzone che conosci già. La notte sentirai una canzone, una canzone che conosci già. Sentirai una canzone, una canzone che conosci già.